Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, realizzi su alcune borse, Parigi che ieri aveva guadagnato quasi il 6%, anzi oltre il 6%, perde lo 0,30%, quindi poca roba, così come Milano perde l'1,50%. Sarei cauto a dire, come scrivono già alcuni ascoltatori, oggi di nuovo la bufera, non mi sembra meno 1,50%. È venerdì, si va a vendere, ieri titoli che hanno guadagnato tra il 10 e il 20%, tutti i titoli bancari, per cui l'euro è a quota sul dollaro 1,41,77, quindi 1,42 quasi, poco mosso rispetto a ieri. Gli Stati Uniti guadagnano lo 0,14%, Francoforte più 0,20, Londra meno 0,20. Come vedete la situazione è abbastanza mista, ma non così preoccupante in tutta Europa. In Italia Tenaris guadagna il 2,35, Fiat il 2%, Autogrill 1,5%, Tod's più 1,15. Il fronte opposto vede vendite sulle banche, non però quelle che erano cresciute di più ieri, perché la Popolare di Milano perde il 7,60%, la Popolare di Emilia Romagna perde il 6,60%, il Banco Popolare meno 6%. E Unicredit e Intesa San Paolo perdono meno oggettivamente, nel senso che Unicredit cede in questo momento il 4%, devo dire che Intesa perde ancora meno, l'1%, e poi c'è Fiat che perde il 4,70%, Monte dei Paschi meno 4,5%, Prisma meno 3,20%. Su Monte dei Paschi ci sono anche delle preoccupazioni proprio interne alla banca, poi magari ne parliamo. Mediolanum meno 3,20%, Ubibanca meno 2,90%, Fondiere Assai meno 2,40%, Finmeccanica meno 2,20%, Enel meno 2%. Di cosa ci occupiamo oggi? Beh, un aggiornamento sul quello che sta avvenendo sui mercati del rischio, come possiamo chiamarli, ossia dove si misura il rischio Italia. Perché abbiamo dei rendimenti dei BTP di nuovo in rialzo. Allora, attenzione, perché il BTP a 10 anni ha sfondato la quota 6%, cioè è tornato a un livello precedente la lettera del governo all'Europa. Il 6% è un record per l'Italia quanto a rendimento di un BTP da quando esiste l'euro. Bisogna tornare, per trovare un rendimento analogo, bisogna tornare, pensate, al 1997, la prima asta dopo il vertice europeo del weekend. E l'Italia era oggetto di interesse, mettiamolo così, da parte degli investitori e anche di preoccupazione. Tra l'altro gli spread, perché poi il 6% vuol dire che a noi costa quasi il 4% in più trovare dei compratori rispetto a quanto non costi alla Germania, cioè dobbiamo far rendere i nostri BTP al 6%. Dicevo, gli unici due paesi che vedono un andamento degli spread che si allarga rispetto alla Germania sono l'Italia e la Grecia, a segnalare che sono i due paesi in questo momento nel mirino. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo in tema di debiti sovrani. L'agenzia di rating Fitch dice che se si dovesse ricorrere, come sembra ormai scontato, a una svalutazione del debito greco intorno al 50%, sarebbe di fatto un default, un fallimento, e ha assegnato comunque la tripla A al nuovo fondo di salvataggio europeo con la nuova dotazione di IFSF. E poi, sempre sul vertice, oggi il portavoce del governo tedesco Stefan Seibert ha detto che i colloqui fra Angela Merkel e Silvio Berlusconi sono stati buoni, anche la presenza di Nicolas Sarkozy. nell'incontro di domenica. E poi sempre il portavoce del governo tedesco ha citato il presidente della Repubblica Napolitano dicendo che il governo tedesco si augura che anche il governo italiano la pensi come presidente della Repubblica. Certo, ancora polemiche sulle dichiarazioni di ieri sera di Nicolas Sarkozy, che ha definito in TV un errore far entrare la Grecia nell'euro e ha aggiunto: se fosse caduta la Grecia sarebbe caduta anche l'Italia e poi sarebbe stata la fine dell'Europa. Si è dimenticato un passaggio però Sarkozy. Io mi permetto modestamente di concludere integrale la sua frase: se avessimo lasciato cadere la Grecia, dopo sarebbe toccato l'Italia e dopo l'Italia sarebbe toccato la Spagna, alla Francia, e quindi sarebbe stata la fine dell'Europa, perché la Francia, mi dispiace per lui, è il vero pericolo se cade l'Italia. Oggi facciamo il pompiere, no, un pompiere di nulla. Questa è la situazione, abbiamo dei BTP a record storico che sfondano la quota del 6% sui rendimenti, mi sembra che ci sia molto poca acqua da buttare sul fuoco. E poi le dichiarazioni di Berlusconi di oggi su Benismaghi, praticamente sapete cosa è successo ieri, magari ve le facciamo riascoltare. Alla Zanzara è stata una finta intervista, una vera intervista a Benismaghi con un finto Umberto Bossi. Benismaghi in questa intervista, in maniera un po' improvvida, ha detto che Berlusconi ha sbagliato andare pubblicamente in televisione a chiedere una cosa che poi rende difficile la soluzione. Oggi Berlusconi ha risposto dicendo sostanzialmente che non sono le sue dichiarazioni ma è la permanenza di Benismaghi nel board della Banca Centrale Europea a creare un problema. Ultimo dato, la produzione industriale è meno 0,3% ad ottobre rispetto al mese di settembre, l'analisi è del Centro Studi Confindustria e tra l'altro anche a livello annuale siamo sotto del 17% rispetto al livello pre-crisi, al livello diciamo sostanzialmente dell'aprile del 2008, la produzione industriale che pure ha recuperato dai minimi del marzo 2009 l'11%, adesso è ancora il 17,5% sotto i livelli pre-crisi. Quindi siamo, come produzione industriale abbiamo recuperato la metà di quanto abbiamo perso nel 2008. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso inizia un nostro viaggio sui temi della lettera dell'Italia a Bruxelles. Ieri abbiamo affrontato il tema dei licenziamenti, chiaramente era quello più caldo e l'abbiamo fatto anche con i sindacati. Oggi vorremmo affrontare altri due temi, rispettivamente quello della sburocratizzazione. Il costo della burocrazia in Italia vale qualcosa come 14 miliardi di euro per le imprese ogni anno, e poi anche le liberalizzazioni. Partiamo proprio visto che abbiamo promesso a Bruxelles che andremo a sburocratizzare il paese, partiamo proprio da questo. Eh sì, perché 14 miliardi è quello che pagano le imprese per gli oneri burocratici, basterebbe portarli a un livello europeo, sarebbero 7 miliardi di euro all'anno in meno, 70 miliardi il peso stimato su cittadini, imprese e istituzioni, quindi tutti assieme. Tra l'altro un eccesso di burocrazia finisce per alimentare la corruzione. Vi do tre dati e poi introduco l'ospite. Allora, per costruire un capannone in questo paese ci vogliono 257 giorni di attesa per avere il permesso, quasi un anno. In Francia sono 130, in Germania 100. E quante ore spende un'impresa per tutti gli adempimenti di carattere fiscale? È burocrazia anche quello. 258 ore in media, sono la metà in Francia, 132. E le tasse le pagano più che da noi. E poi quanti sono gli adempimenti fiscali delle imprese? Allora, sono 122, in Inghilterra sono 12. E nella Francia, che pure ha una bella burocrazia, anche la Francia, un sistema centralizzato di prefetti, sono 82. Ne parliamo con il presidente dell'ANDAF, che è l'Associazione Nazionale dei Dottori Amministrativi e Contabili, che è a congresso a Torino e ha dedicato il suo congresso proprio alle semplificazioni burocratiche per le imprese. Presidente Fausto Cosi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, al di là di, alla luce di queste cifre, mi può dire per favore quali sono le vostre proposte concrete? Noi rappresentiamo appunto i direttori amministrativi e finanziari delle aziende italiane e abbiamo durante un anno di lavoro attraverso i nostri comitati tecnici elaborato una serie di proposte relative a una semplificazione dal punto di vista fiscale della governance, della gestione del bilancio e sull'information technology in particolare. Noi abbiamo quindi presentato un libro bianco in cui racchiudiamo queste proposte che derivano dall'osservazione dei fenomeni che giornalmente capitano sulle nostre scrivanie e che rendono oltremodo lento e faticoso il nostro operato all'interno delle aziende senza alcun valore aggiunto. Quindi lo scopo dell'iniziativa è quello di individuare delle proposte alternative che a parità di gettito determinino una semplificazione da un punto di vista amministrativo e burocratico nelle attività delle imprese, che quindi potrebbero destinare risorse, tempo e quindi soldi ad attività a maggior valore aggiunto piuttosto che a registrare fatture in termini poco lineari, a gestire una nota spese di un dipendente commerciale ci vogliono qualche ora di lavoro, perché fra scontrini, fatture e quant'altro ci sono varie tipologie di costo che hanno tutte un trattamento diverso da un punto di vista fiscale. Quindi è una babele di adempimenti che sicuramente drena tempo e risorse senza alcun valore aggiunto. Questo è quello che noi andiamo a presentare attraverso questo libro bianco sulla semplificazione. No, anche perché mi sembra il tempo delle proposte, visto che sennò abbiamo dato degli appuntamenti all'Europa così a breve giro, 3 mesi, 6 mesi, 4 mesi, che è meglio raccogliere le proposte subito e varare le leggi se non vogliamo essere sbeffeggiati di nuovo. Mi dica una cosa, Presidente Cosi, ma secondo lei perché non si è fatta la sburocratizzazione? Visto che a costo zero, voi appunto avete detto semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, semplificare l'informativa di bilancio, anche perché poi i bilanci vengono truccati al di là della burocrazia, se uno vuole, il rafforzamento dell'uso della fatturazione elettronica e della tecnologia digitale, siccome sono a costo zero, perché non le hanno fatte? Lei perché si sarà fatto questa domanda? Manca una visione strategica, manca una continuità anche nella gestione di certe situazioni, vale a dire sono cambiati spesso troppi governi e sono cambiati gli interlocutori e ciascuno magari aveva una sua visione e non si è mai fatto un ragionamento d'assieme e quindi sono sempre stati fatti dei provvedimenti a ricerca del gettito per il gettito con una visione di breve termine. Questo quindi ha sedimentato una serie di provvedimenti uno sull'altro che alla fine non servono a nessuno e noi facciamo un ragionamento a parità di gettito, ma gestire una spesa di rappresentanza o gestire un costo di un'auto aziendale richiede oggi dei tempi assurdi rispetto a quello di cui parlando. Non ho capito, lei mi dice perché ci sono le lobby trasversali o perché si è puntato solo a far cassa senza guardare a una politica economica di medio termine? Esatto, è la seconda la mia risposta. Che è la critica che viene fatta al ministro Tremonti più spesso, E noi la vediamo in questi termini. È mancata una strategia di mettersi a riflettere un attimo su dei provvedimenti seri, operativi, concreti nell'interesse delle imprese. Questo è mancato sempre. Grazie al Presidente e buon congresso dell'Associazione Nazionale dei Dottori Amministrativi e Contabili, Fausto Cosi. Grazie a voi, buonasera. E prima di arrivare invece alle liberalizzazioni, ma anche alla borsa e al rendimento dei nostri BTP, che sono gli altri tre temi del programma, Vorrei parlare di un argomento non leggero, è serissimo, e fare il punto su quello che è cambiato e sta cambiando in questo paese dopo una legge di cui poco si è parlato, forse, del 28 giugno scorso. La legge è quella sulle quote rosa e prevede una cosa importantissima. Eh sì, perché il 28 giugno scorso è stata approvata in via definitiva la legge sulle quote rosa, ricorderete, ne abbiamo parlato molte volte, e a partire dal 2012 tutte le società quotate in borsa e le loro controllate dovranno avere nei consigli di amministrazione e nel collegio sindacale almeno una donna su 5 membri. Poi saliranno al 30% nel 2015, multe salatissime per chi non si adegua, fino a 1 milione di euro e la decadenza del consiglio di amministrazione stesso. E quale aria migliore rispetto alla Traviata al Noi Siamo Zingarelle per parlarne con chi ha promosso quella legge, ossia la presidente della Fondazione Bellisario, nonché deputata del PDL, onorevole Lella Golfo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutte. Le ho messo Noi Siamo Zingarelle perché così adesso lo siete un po' di meno dopo questa legge. Senta, onorevole Golfo, voi avete presentato, assieme tra l'altro al Sole 24 Ore, un'elaborazione di dati per cui quante saranno le cosiddette poltrone d'oro che verranno, alla luce di questa legge, sgombrate e quindi devono essere lasciate le donne da qua al 2012? Allora, le società quotate sono 272, le donne attualmente sono 194 su 2837 poltrone. Quindi io lascio proprio la percentuale, non ce l'ho, ma abbiamo più o meno calcolato che saranno un 675 nel 2015. E con una cifra dei 4 anni, appunto, come riportava anche oggi, esatto, sulle 24, di 5.000. Quel 20%, sì, che porta, visto che parliamo anche delle controllate e non solo, ecco, delle quotate. Con le controllate il dato è ancora più alto, più gradante, perché noi, così da un nostro conteggio, abbiamo visto che in Italia ci sono 2076 controllate, e i posti attualmente sono 13.500. Queste controllate sono il 55% al nord, il 30% al centro, il 14% al sud, e solo la Lombardia ce n'ha 396. E da lì si arriva la cifra che, appunto, stimata da Sole 24 Ore e dalla Fondazione Bellisario, di 5.300 poltrone nei prossimi 4 anni, non, qualcosa, sì, esatto, non tutte nel 2012, non temono i maschietti, non temono, diciamo, nel breve. Allora, tra l'altro avete mappato 13.700 aziende. Mi dica una cosa, onorevole Golfo, io non voglio tornare sulle solite polemiche, però è vero che voi avete invitato le donne, insomma, meritevoli, chi si ritiene meritevole, a mandare i vari curricula alla Fondazione Bellisario? Certo, noi proprio per sfatare quello che si diceva, ma le donne non ci sono, eccetera, eccetera, abbiamo fatto un passaparola tra le nostre associate con l'obiettivo di raccogliere 1.000 curricula eccellenti. Ne abbiamo raccolte 2005 e ne sono state certificate proprio col bollino, che sono proprio pronte a entrare nei CDA, 1700 in questo momento. Quindi le donne ci sono tante e sono pronte proprio a entrare non solo nei consigli di amministrazione, ma dare quel contributo importante alla crescita economica del nostro paese. Sì, c'è chi potrebbe obiettare che il fatto che voi abbiate dovuto lanciare una campagna di curricula da inviare alla Fondazione Bellisario era la dimostrazione provata che non c'erano già lì pronte le donne a entrare nei consigli di amministrazione. Ma io credo che le donne prima di questa legge non erano neanche consapevoli. Questa legge ha avuto veramente la capacità non solo di far discutere, ma mobilitare le donne e proprio e rendersi conto del loro valore. E questo credo che è stato il passo più importante di questa legge. E come ben sa, già quasi 21 società senza rispettare la legge, hanno già nominato 21 donne nei consigli di amministrazione. Allora, fermo restando che i dati statistici sono inequivocabili, come donne manager noi abbiamo il 12% del totale, la media europea è tre volte più alta, cioè quasi il 33%, e siamo superati dalla Germania che ha il 37% di donne manager, Gran Bretagna il 35%, Francia il 30%, ma anche la Grecia ha il 15% di donne manager, la Turchia 22%, anche sulle donne nei consigli di amministrazione, che è quello che riguarda la legge Golfo, anche qui attenzione perché sono il 3%, la media europea è l'11%, quindi siamo a un quarto. Al di là del caso della Norvegia, abbiamo casi in Europa dove si viaggia tranquillamente a tre volte il dato italiano. Che cosa vi garantisce che l'ingresso delle donne migliorerà la governance e comunque i consigli di amministrazione? Lo dice la Banca d'Italia, non lo dico io, tutte le ricerche proprio dicono che dove le donne sono ai vertici sono portatrici di governance migliore e comportamenti meno rischiosi. Questo non lo dico io, l'ha detto la Banca d'Italia, quindi io credo che una verità c'è. Tra l'altro avete una donna presidente del consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore e mi pare che una donna che sta lavorando bene e i risultati li sta portando. Cosa vuole che risponda, visto che parla del mio amministratore delegato, onorevole Golfo? Non so. Io almeno quello che... No, ma se vuole posso utilizzare ancora di più una piaggeria e dire che non solo abbiamo l'amministratore delegato del gruppo, ma anche l'amministratore delegato della radio, la presidente di Confindustria, l'ex presidente dei giovani. Che sono tutti premi Belisario, noi li abbiamo scoperti in tempi non sospetti, insomma, quando ancora forse non si parlava neanche della legge. Oppure la Fondazione Belisario è una lobby più potente di altre. No, nella maniera più assoluta, assolutamente. Non, la nostra è una fondazione aperta a tutte le donne, siamo delle donne concrete che lavoriamo con entusiasmo e con passione, e quando si lavora così poi i risultati si raggiungono, e provane sia la presidente di Confindustria Emma Merciagalli. Beh, insomma, onorevole Golfo, cosa vuole che le dica sulla presidente di Confindustria, che è bravissima come tutti i presidenti di Confindustria. Al di là della battuta, andiamo sul metodo, sulla pubblicità, e poi invece vorrei capire, visto che ci sono molti messaggi su questo, poi andiamo alla borsa, i bot, abbiate pazienza, non si può sempre fare la crisi dei debiti come argomento, però vorrei capire quello che è il tema sostanzialmente. Cioè, secondo me questa legge sarà stata anche dovuta, obbligatoria, perché in questo paese nulla cambia, però è una legge profondamente antimeritocratica. Ne parliamo dopo il meteo. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa, -1,78% alla fine della chiusura, -0,60% a Parigi. Vorrei concludere però questa intervista con Lella Golfo, presidente della Fondazione Belisario. Oggi appunto il loro convegno annuale ha un po' di più di tre mesi dall'approvazione della legge sulle quote rosa nei consigli di amministrazione, che obbliga, ripeto, pena multa di €1 milione fino a €1 milione e decadimento del consiglio di amministrazione, obbliga i consigli di amministrazione delle società quotate a avere almeno il 20% di donne entro 2012 e il 30% entro 2015. Onorevole Belisario, perché è anche deputato del PDL, la domanda che avevo fatto prima era la seguente: insomma, questa legge sarà pure dovuta, perché qua non cambia niente, se non si è obbligati, ma è da un punto di vista di principio completamente antimeritocratica, cioè uno deve entrare in un CDA per bravura, non per età, sesso o altre caratteristiche. Visto che lei è anche onorevole, la sua esperienza in politica è che, diciamo, le donne, la componente femminile porti un valore aggiunto? Ma certo che è un valore aggiunto, perché poi alla fine le donne sono il 59% delle lauree nel nostro paese. Perché non dobbiamo riconoscergli questo? Cioè, per quale motivo? Poi è una legge temporanea, dura 9 anni, il tempo secondo me di cambiare la cultura del nostro paese, dopodiché se va male sì, non ci sarà più, non è che dura in eterno, è un esperimento che non costa niente, si fa e vediamo, io sono convinta che ne avrà di meglio l'economia del nostro paese. Sì, mi scusi se insisto, però perché secondo lei in questo paese non si ha un ministro dell'economia donna, non voglio trovare un sostituto per Tremonti? No, è una domanda. E perché tanti altri paesi hanno conosciuto Presidente del Consiglio donne e o Vicepresidente del Consiglio, mentre da noi il ministro donna, col massimo rispetto verso la prestigiacomo, la Gelmini e tutte le donne ministri, ha sempre un dicastero meno cruciale, questo lo possiamo dire? Ma questo dipende dal Presidente del Consiglio che fa le nomine, non dipende da me. Forse dipende da me, metterei molte in più di donne, perché ci sono e sono capace. Non dipende né da me né dalla Fondazione Belisario, per cui quelle poche cose che noi riusciamo a fare, li portiamo avanti, ma quello non è una cosa che dipende dalla Fondazione Belisario. No, volevo sapere il suo punto di vista, visto che lei fa anche l'onorevole. Secondo me questo paese ha delle donne che meritano ruoli diversi. Io mi sono battuta per avere la governatrice della Banca d'Italia, ma lo sa che i giornali non mi hanno pubblicato neanche una lettera dove io la sostenevo? Lei chi avrebbe voluto? Mi avrebbe fatto piacere che ci fosse almeno Anna Maria Tarantola. La Tarantola. Ecco. Io ho mandato la lettera. Ma solo in quanto donna o perché brava? Perché ha dimostrato che è una donna capace, brava, quindi mi pare che potrebbe tranquillamente, a pari degli altri, guidare la banca d'Italia. Ma se ci fosse un rimpasto di governo, a lei piacerebbe che entrassero più donne? Ma certo, cioè, ma sicuramente. Perché mi sembra che la sfida politica sia tutta di nuovo giocata, per quello che leggiamo, magari, tra uomini, no? Donne, questo paese forse starebbe meglio oggi. Se vuole. Ma lei chi vedrebbe bene come presidente del consiglio donna? Insomma, lei è la presidente della Fondazione Belisario, mi faccia 3 nomi, non voglio mettere in difficoltà. Io guardi, in questo momento non mi va di fare nomi, non mi interessa. Comunque nel momento in cui siamo chiamati, i nomi li possiamo fare. Cioè, sono tante donne. Ecco, e secondo lei, per concludere, è sano che la Fondazione Belisario, io lo dico con il massimo rispetto, faccia anche un po' di lobby pro donne, cioè che diventi anche un elemento, come avviene in altre, non so, in America ci sono intere comunità che decidono il voto alle presidenziali. Ma se lei ci vuole chiamare lobby va benissimo, questa è una lobby di trasparenza dove le donne siedono nelle nostre riunioni, discutiamo, affrontiamo i problemi. Certo, sicuramente non siamo là a guardare proprio il potere. Certo, il potere lo vogliamo, ce lo stiamo costruendo e nel momento che lo costruiamo forse un pezzetto ci appartiene. Vabbè. Quindi però io non so quanto, però magari mi piacerebbe contare, essere quella lobby di cui lei sta parlando. Purtroppo non è così, perché anch'io fatico. Forse le donne storicamente delle cose che ritengo sacrosante. Dico, forse le donne storicamente hanno un po' di difficoltà a fare rete, a fare lobby in senso positivo? No, dico, forse storicamente le donne hanno un po' di difficoltà a fare rete, a fare lobby in senso positivo? Questo è un problema, secondo me un po' esiste, però credo che si sta piano piano risolvendosi. Senta, nel salutarla mi dica solo una cosa, ma è più importante il tema del sesso, cioè quello che in inglese si chiama gender, quote femminili, quote maschili, o dell'età, giovani, anziani, secondo lei? Secondo me questo è un mondo di giovani, quindi dobbiamo dare spazio ai giovani, dobbiamo proprio metterli nel processo produttivo e io sono per certo che ci sono tantissime aziende guidate da giovani imprenditori che non hanno neanche 40 anni, che marciano bene e sono all'avanguardia, quindi largo ai giovani e soprattutto ai giovani. Ma siamo più in ritardo sulle quote rosa o sulle quote giovani? Siamo più in ritardo sulle quote rose o sulle quote giovani? Ma io non faccio questione di quote rose e quote giovani, guardi, secondo me non è questo il punto. Cioè chi ha le grandi capacità deve andare avanti. L'ingiustizia è sulle donne, almeno in questo senso la stiamo affrontando, la verificheremo nell'arco dei 9 anni e poi si vedrà. Comunque complimenti, perché lei, noi la seguiamo da tempo, l'onorevole Golfo, è riuscita a portare a casa, la legge si chiama Golfo Mosca, per essere... Guardi, io per sono essere riuscita... No, a portare a casa una riforma che aveva un'opposizione bipartisan, perché la componente maschile è abbastanza bipartisan, complimenti, che ha terrorizzato e sta preoccupando molti consigli di amministrazione, che però poi spingerà, speriamo come in Norvegia, a creare anche dei virtuosismi. Grazie alla Presidente della Fondazione Belisario, nonché deputata del PDL, Lella Golfo. Grazie, buona serata, grazie. Allora, no, attenzione, vedo alcuni maschietti, immagino, che scrivono, ma insomma, qui però è un problema, è il 2012 l'anno in cui devono entrare il 20% di donne nelle società quotate, nel consiglio di amministrazione delle società quotate e di tutte le controllate, stiamo parlando di 4.500 sedie, più o meno d'oro. E adesso facciamo anche la borsa, ci mancherebbe, con buona pace degli ortodossi del programma che vorrebbero che parlassimo sempre solo di spread, tassi di interesse, mercati, attacco ai debiti sovrani. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Tu sei a favore delle quote rosa? Sì, per partire assolutamente sì. Ecco. Per partire, ma mi sembra che siete parecchie, no? Donne, anche Radio Core. Sì. Abbastanza. Non sufficienti. Allora, un primo commento su Milano, che è la peggiore, meno 1,80%, Parigi meno 0,60%, Francoforte più 0,13%, Londra meno 0,35%, devo dire che, visti i cari degli altri, sono realizzi un po' insistenti. Come mai però le vendite vanno su titoli che ieri erano cresciuti non più di altri? Penso alla Popolare di Milano, meno 10%, meno 9,60% per la precisione. Beh, per la Popolare di Milano c'è un motivo. Oggi ritracciano le banche che ieri avevano guadagnato molto, però per la Popolare di Milano c'è un motivo, nel senso che lunedì parte l'aumento di capitale, è stato fissato il prezzo, quindi a 0,30 euro, che pare uno sconto del 40% sul prezzo dell'azione dopo aver staccato il diritto. Gli operatori ritengono questo sconto ampio e che uno sconto che conferma i timori sull'esito dell'operazione di aumento di capitale. Inoltre gli stessi esperti ricordano che nel primo semestre le ricapitalizzazioni che hanno fatto gli altri istituti italiani sono avvenute a uno sconto medio del 22-25%, quindi probabilmente questo ha impattato sul titolo, oltre ovviamente al calo generalizzato delle banche a Milano. Ecco, vorrei sentire anche il tuo ragionamento sulla Popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso il 6,70% e anche il Banco Popolare meno 6,40%, mentre chi ieri molto aveva guadagnato, Unicredit per esempio, perde il 4,36%, Intesa San Paolo contiene il calo allo 0,90%, quindi Banco Popolare, Popolare Emilia Romagna, dopo il traffico a chi continua a scrivere ma che palle sta il tema delle quote rosa, sarà una palla per lei forse, ma non per chi è coinvolto, fatemi indovinare il sesso, forse un maschio che scrive traffico. ...17:49, c'è chi scrive anche: Barisoni, è inutile che fai il buonista e il populista sulle quote rosa, abbiamo ben altri problemi. Ho capito, però insomma, anche questo è un tema, visto che la legge è chiara. E poi torniamo sulla lettera a Bruxelles. Dicevo, Livia Zancaner, Popolare Emilia Romagna e Banco Popolare, rispettivamente meno 7, meno 6, 41%. Sì, allora bisogna fare una premessa. Allora, i mercati oggi riflettono sulle indicazioni date ieri dall'EBA, quindi dall'Autorità Bancaria Europea, sulla necessità di rafforzare il capitale per le banche europee. In Italia, però, a penalizzare i titoli degli istituti di credito sono più che altro i timori sulla sostenibilità del debito italiano, visto il balzo del rendimento dei titoli di Stato decennali sopra la soglia del 6%, che secondo gli operatori è una soglia che nel lungo termine non è sostenibile. Questo penalizza soprattutto i titoli delle banche. Poi, per quanto riguarda la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che hai citato tu, bisogna sottolineare nuovamente che dall'ingresso nel FTSE MIB il 19 settembre il titolo ha perso oltre il 31%. Per il Banco Popolare le preoccupazioni riguardano appunto la necessità di rafforzamento del capitale. Il management ha spiegato che non c'è bisogno di lanciare un aumento di di capitale dopo quello da 2 miliardi di euro, ma in realtà il mercato sembra non essere d'accordo, ma ritiene che all'interno del comparto bancario il Banco Popolare sia quello a maggior rischio di un rafforzamento patrimoniale. E lo teme anche del Monte dei Paschi. Vorrei aprire anche un commento sul Monte dei Paschi, -4,81%, lì c'è più la componente di obbligazioni, se ben ricordo, obbligazioni anche italiane in pancia al Monte dei Paschi. Sì, in realtà appunto, come dicevo prima, il mercato sta iniziando a ragionare su quanto ogni istituto di credito ha bisogno, quindi dopo le indicazioni fornite dall'EBA, e in realtà però le stime che circolano sul mercato non sono ancora chiare, anche perché sono arrivate ieri le dichiarazioni dei vari istituti e oggi è una giornata più che altro di riflessione. A proposito di rendimenti, cioè il ragionamento che fa il mercato è se le banche di un paese hanno sempre molte obbligazioni, molti bot BTP di quel paese, perché comprano debito nazionale, e ci mancherebbe. Se si deteriora il valore di questi bot o BTP, ossia aumentano i rendimenti e quindi calano i prezzi, tu che le hai comprate tempo fa ti cala il valore della tua obbligazione, vado a spiegarlo in maniera un po' brutale, e quindi penalizzano le banche che hanno più in pancia le obbligazioni. Sul fronte delle obbligazioni italiane, cioè dei bot o BTP, oggi la notizia più forte, a mio avviso, riguarda questo record nei rendimenti del BTP a 10 anni, che ha sfondato la soglia del 6%, il massimo da quando esiste l'euro. Moria Longo è qui accanto a me ed è uno degli esperti del Sole 24 Ore in tema di obbligazioni. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Il motivo per cui si è arrivati, per quello che riuscite a leggerlo come motivo, ha un superamento del 6%, che è un dato che tra l'altro non è stato così negativo nemmeno prima della lettera a Bruxelles, cioè è il massimo toccato dal BTP a 10 anni. Sì, il motivo per cui oggi il BTP a 10 anni è uscito con un rendimento così alto è legato al fatto che stanno salendo i rendimenti anche sul mercato secondario. Ricordo che oggi lo spread, cioè il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è tornato a 382 punti base, è salito molto rispetto a ieri. Questo testimonia che stanno tornando le tensioni non solo sull'Italia, perché è salito anche lo spread per esempio della Spagna e di altri paesi, ma sull'Italia c'è un'attenzione diciamo particolare. Il motivo per cui sta accadendo questo, dopo invece il rally che era accaduto ieri, è perché il mercato sta iniziando un po' a guardare i dettagli della lettera, ma anche di tutto l'impianto di salvataggio della Grecia e del fondo e la creazione, il potenziamento. Cioè dopo l'euforia di ieri, per lo scampato pericolo, perché si è rischiata la rottura vera e propria tra Francia e Germania, oggi si guarda, come si suol dire, il diavolo sta nei dettagli. Allora si inizia a vedere che per esempio c'è la Corte Costituzionale tedesca che potrebbe mettere il bastone tra le ruote al potenziamento del fondo salva stati, si inizia a guardare che la Cina inizia a mettere qualche puntino in più sulle I per partecipare appunto al fondo salva stati, anche il fondo sovrano della Norvegia sta appunto, oggi per esempio diceva che non investirà in programmi di salvataggio to cure. Quindi diciamo che iniziano ad emergere, dopo l'euforia di ieri, perché finalmente un accordo si è trovato, iniziano ad emergere le prime difficoltà e si capisce che la strada è ancora in salita, non è che abbiamo risolto tutto. Stato fatto un passo avanti importante, ma non è certo quello definitivo. Sì, devo dire che però la reazione oggi in borsa è cauta, adesso a parte Milano -1,78%, ma pesano quelle tre banche che ho detto, Parigi perde lo 0,60%. Sì, perché comunque il passo avanti è stato fatto. Sì, è stato fatto. Però rimango il problema di dettagli. Attenzione BTP al 6% a 10 anni. E tra l'altro voi domani ne parlerete su Sole 24 Ore con un'altra puntata delle guide indispensabili, tutto risparmio, no? Sì, domani insieme a Sole 24 Ore uscirà il quinto librettino su appunto come difendersi durante la crisi. Il titolo della collana è Risparmio e investimenti in tempo di crisi. Domani ci concentreremo proprio sul risparmio, quindi sui vari strumenti che gli risparmiatori hanno per appunto proteggere i propri risparmi dai bond dei paesi emergenti al materasso e così via. Per cui domani sarà in edicola insieme a Sole 24 Ore. Grazie a Moria Longo, Radio Corris. Buonanotte, Moria Longo del Sole 24 Ore. Mentre torna, è un gruppo così ampio, ogni tanto uno si confonde. Torno a Livia Zancanelli di Radio Corriere Sole 24 Ore per parlare ancora di due titoli, in particolar modo Edison, la guerra, la querelle tra Francia e Italia. Sì, allora Edison oggi ha chiuso in calo, ha perso oltre il 4%, bisogna sottolineare che anche EDF a Parigi non ha fatto bene, ma perdeva circa il 5%. Allora, i motivi del calo di Edison sono due: da una parte i conti dei 9 mesi, che hanno mostrato una perdita di 93 milioni rispetto a un utile di 179 milioni dello stesso periodo del 2010, dall'altra appunto l'accordo raggiunto finalmente tra i soci italiani e francesi sul riassetto. L'accordo tra A2A, in particolare ed EDF, prevede che EDF appunto salirà a circa il 50% di Edison, ma un'eventuale OPA, quindi un'offerta pubblica di acquisto, potrebbe avvenire a un prezzo medio ponderato di borsa degli ultimi 12 mesi. Questo prezzo potrebbe aggirarsi intorno a 0,86 euro a fronte di una chiusura di ieri di 0,87 euro, quindi magari chi aveva scommesso su un prezzo più alto dell'OPA oggi è rimasto deluso, esatto, e ha venduto. Ancora due titoli dopo il GR, a partire da Autogrill. 349-238-6666 per i vostri sms prima di tutto il GR, poi parliamo dei consumi in Italia, visto che l'Istat oggi poco fa ha scoperto, si fa per dire, che il divario tra i salari e i prezzi non è mai stato così ampio in Italia dal 1997. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancanelli, per concludere l'approfondimento di borsa, lo dico a chi si fosse messo in ascolto, che oggi a Milano ha perso l'1,78%, a Parigi alla fine meno 0,30, Francoforte più 0,13 e Londra meno 0,20%. Dicevo, come titoli, Geox da un lato, perché il titolo ha fatto oggi un più 10,40%. Partiamo con Geox. Sì, allora, in realtà il titolo è scattato sul finale, nel senso che fino a metà seduta o nel primo pomeriggio guadagnava il 5%. Non ci sono novità, se non quella che il comparto del lusso oggi è andato piuttosto bene, con Tod's che ha guadagnato anche più 0,61%, ma in relazione al titolo novità ufficiali non ce ne sono. L'altro titolo è Autogrill, più 1,21%, che assieme a Tenaris è il migliore oggi tra quelle maggiore capitalizzazione. Sì, allora bisogna dire che Autogrill sta mostrando un andamento positivo dal 23 settembre, giorno da cui ha guadagnato più o meno il 20,5%, sono arrivate una serie di notizie positive, come inizio ottobre il rinnovo per 10 anni della concessione dell'aeroporto di Las Vegas, ma l'attesa probabilmente del mercato è tutta per i conti che saranno comunicati il 10 novembre. Grazie a Livia Zancaner, Radio Colle sulle 24 ore, buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Il peggior titolo in assoluto, la Popolare di Milano, meno 9,60%, e poi Italy One Investment, meno 9,96%. Noi adesso cambiamo tema e continua il viaggio sulla lettera inviata a Bruxelles. In apertura abbiamo parlato del tema dell'eliminare o ridurre il peso burocratico. Un altro passaggio di questa lettera, al di là dei licenziamenti, riguarda invece il tentativo di varare finalmente una nuova serie di liberalizzazioni. E lo dico nel momento in cui l'Istat poco fa ha diffuso un dato su settembre in cui il divario prezzi-salari, cioè come vanno i salari, come vanno i prezzi, non è mai stato così ampio. La forbice tra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie più 1,7% e l'inflazione più 3% ha toccato una differenza che non si vedeva almeno dal 1997, e quindi, ahimè, un record. Allora parliamo di consumi. Allora, come dicevamo, continuano i nostri viaggi con manager o proprietari di gruppi industriali, di imprese, di servizi, per farci raccontare da loro qual è la prospettiva che vedono sul paese, quali sono gli indicatori economici che vedono muoversi al di là di quelli classici macroeconomici aggregati che commentiamo praticamente ogni giorno. E torniamo su un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dovrebbe essere d'obbligo, ossia il largo consumo, come si chiama in gergo, quindi grande distribuzione, ma non solo. Oggi ne parliamo con il più grande gruppo europeo nella grande distribuzione e secondo al mondo dopo il colosso americano Walmart. Il gruppo è di origine francese, è francese, e si chiama Carrefour. Il nostro ospite, lo ringraziamo, l'amministratore delegato di Carrefour Italia, Giuseppe Brambilla di Civesio, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E anche a chi non ci ascolta, ma ci ascolterà fra un attimo. Allora, al di là di questo, voi siete il secondo gruppo al mondo nella grande distribuzione e il primo a livello europeo. I francesi, lo dico per inciso, hanno storicamente una tradizione molto forte fin dagli anni Ottanta nella grande distribuzione organizzata, nella GDO, come si chiama in gergo, e da noi poi si è cercato di rispondere con alcuni vostri concorrenti, Esselunga, Ipercoop e quant'altro. Però prima vorrei parlare di consumi, poi vorrei parlare di liberalizzazioni con lei, perché la caratteristica vostra e dei grandi gruppi mondiali della grande distribuzione è ormai di non offrire più solo beni in senso stretto, gli scaffali, quello che compri lo scaffale, ma offrire anche servizi che vanno dai servizi bancari, ai servizi telefonici, nel caso vostro anche i distributori di benzina, quindi la famosa liberalizzazione delle offerte che tanto mal di pancia e tanto fa discutere in questo paese. Prima di tutto però, come stanno andando i consumi? Voi avete lanciato come gruppo a livello internazionale un profit warning che riguarda, immagino, vari paesi delle aree in cui siete presenti. Mi interessa capire invece in Italia se notate A, una contrazione evidente nel valore della spesa dei vostri clienti, ma B, se notate anche una ridefinizione delle modalità di acquisto. Sì, direi che soprattutto questa seconda parte, ormai la crisi dura da qualche tempo e credo che i nostri clienti abbiano imparato a convivere in maniera intelligente con la crisi. Hanno quindi imparato ad effettuare degli arbitraggi per ottenere ciò che vogliono e spesso alle migliori condizioni. Questo si è manifestato nel fatto che la spesa viene sempre più spesso ricercata con le promozioni, che ormai incidono per circa un terzo del fatturato, e questa è una cosa che a noi piace molto. C'è una forte ricerca anche dei prodotti a nostro marchio, a marchio quindi della nostra azienda. Anche perché costano un po' di meno? Certamente, noi oggi uno su quattro dei prodotti che escono dalle nostre casse sono a marchio Carrefour. Sono prodotti che costano in media dal 15 al 25 in meno dei prodotti della grande industria, e quindi i clienti fanno intelligentemente un arbitraggio e riescono così a evidentemente a portare a casa articoli con prezzi più bassi. Ecco, mi fa impazzire questa cosa che il cliente, il consumatore ormai è diventato un broker della sua vita, della gestione della sua vita familiare, perché l'arbitraggio vuol dire insomma sapere come muoversi in un rapporto prezzo-qualità per cui tu riesci a portare a casa più o meno la stessa qualità a un prezzo più basso o avere comunque prezzi più bassi per uguale quantità. Il broker familiare ormai è il vostro consumatore. Beh, in un certo senso sì, e direi che questa crisi, se vogliamo dire ovviamente anche i lati positivi, ha permesso di ridefinire anche un po' i modelli di consumo. Per esempio gli sprechi. Abbiamo notato benissimo che c'è molta più attenzione ad evitare lo spreco, quindi a non comprare dei prodotti che poi in casa finiscono a essere gettati perché non vengono consumati. Quindi c'è una forte attenzione all'essenziale anche. Essenziale coi prezzi e proprio sulle quantità. Ma questo vuol dire che voi, per inciso, state cambiando anche il formato dell'offerta. Cioè lo spreco si ha di solito quando tu compri il superfluo, e vabbè, ma anche quando tu compri una cosa di cui non hai completamente bisogno, cioè ne bisogno di una parte, per cui state ridefinendo i formati al di là dei single o non single. Delle volte i formati facilitano lo spreco. Sì, direi che questo per noi più che altro viene fatto con arbitraggio tra i punti vendita. Noi abbiamo sia grandissimi negozi che negozi più piccoli, in tutti, sempre e ovunque abbiamo mai la possibilità di acquistare piccole porzioni, ma più che altro vediamo che i clienti hanno parecchi interessi sui negozi di vicinato e di prossimità che permettono di acquistare spesso e regolarmente. Allora, per riassumere, un 30% dei vostri clienti compra prodotti solo che dove c'è una promozione, un altro 20% compra prodotti non di marca e siamo già a 1 su 2. E questa è già una prima definizione di come sia cambiata durante la crisi, domanda che facciamo a tutti gli ospiti che abbiamo, l'atteggiamento e la pratica del cliente. Dopo il traffico vorrei sapere anche se sono cambiate le priorità al di là dei beni di prima necessità e qual è il vostro bilancio sulle liberalizzazioni che avete introdotto. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, alla luce anche del dato di cronaca di oggi, mai così alto il divario tra prezzi e salari, mai così alto dal 1997, vorrei concludere l'intervista con il numero uno di Carrefour Italia. Allora, al di là di questo 30% che compra ormai solo prodotti in offerta, in promozione, e un 20% che compra solo i prodotti del marchio del supermercato perché costano meno, è vero che delle volte si possono sovrapporre, ma insomma il dato è quello. È cambiata anche la selezione dei prodotti, cioè al direi di là che... della prima necessità, sì. Direi che su tutto il mondo del non food, oggi ora abbiamo parlato prevalentemente dell'alimentare, su tutto il mondo del non food sicuramente c'è un impatto più importante della crisi. Nella situazione per esempio di quest'estate sicuramente è stato più in difficoltà il tessile anche per situazione climatica, ma se vogliamo tirare un discorso generale, il cliente anche qui cerca la migliore occasione, quindi è disponibilissimo a spendere però a fronte di occasioni e soprattutto spende nel momento del bisogno, non anticipa più di tanto i consumi, ma quando c'è il momento del bisogno spende anche volentieri, però di nuovo è un arbitraggio per rispondere al bisogno immediato piuttosto che alla programmazione di lungo termine. Però lei ci conferma che tutto quello che non è alimentare e quindi non è prima necessità o una cosa che assomiglia alle prime necessità ha subito una contrazione più forte. Sì, sicuramente il mondo del non food è quello che è in maggiore sofferenza. Il mondo del food può avere subito qualche contrazione a valore, ma in termini di volume il mercato ha tenuto. Sul non food, dal tema del tessile, dal tema della televisione, dove peraltro l'anno scorso col passaggio al digitale ci furono forti vendite e così via, sicuramente la situazione è meno florida. Tiene l'innovazione tecnologica, la telefonia, i telefoni intelligenti piuttosto che tutti i prodotti informatici di nuova generazione sicuramente sono molto ancora richiesti. Sì, intelligenti telefoni, meno delle volte chi li utilizza. Mi dico una cosa però, dottor Brambilla di Civesio, ma quando voi andate a definire il tipo di acquisti che vengono compiuti, al di là appunto della contrazione dovuta alla crisi, voi cambiate... Lei si sarà anche chiesto perché alcuni settori vengano percepiti come non in crisi nonostante dovrebbero esserlo. Cioè noi abbiamo da anni messaggi che ci dicono ma dov'è questa crisi se poi i ristoranti di un certo tipo sono pieni. Ieri abbiamo visto un problema di ordine pubblico a Roma per una catena, tanto l'abbiamo detto in tutti i GR, che è Troni, perché ha aperto un grande esercizio di prodotti di elettronica con forti sconti, ma insomma si è rischiata, anzi c'è stata la rissa e ci sono stati problemi di ordine pubblico. Cioè lei quando sente queste osservazioni, che risposta si dà? C'è o non c'è? Ma guardi, la risposta è abbastanza semplice. Io credo che in una situazione di difficoltà i clienti comunque hanno sempre delle preferenze, dei gusti, c'è qualcosa che gli piace. Quindi gli arbitraggi spesso vengono fatti per potersi poi comprare più facilmente quello che ti piace. Quindi può essere un televisore e magari tanto meglio quando c'è un fortissimo sconto, come succede sempre in aperture, piuttosto che tutto il bio. I prodotti bio sono più cari, noi stiamo aumentando del 10%, è possibile che i clienti in alcuni casi facciano arbitraggi, risparmiano solo qualche parte perché hanno una passione per il bio. E quindi il mondo ormai è molto differente, si risparmia da una parte per potersi concedere un lusso dall'altra, visto che il reddito magari non cresce così tanto. Cioè diciamo che all'interno di una contrazione dei consumi, non poniamo da 100 a 90, poi questo 90 stesso viene ridefinito con diverse priorità. Lei parla di arbitraggi, è quello che... E il povero e compianto Giampaolo Fabris qui definì neosobrietà più che neopovertà, cioè al di là di una maggiore difficoltà a fare la spesa ridefinisco anche quello che per me è importante, non rinuncio, per esempio il caso del bio e tutto il biologico è eclatante, è continuato a crescere anche in piena crisi, evidentemente rinuncio a qualcos'altro e lì appunto la sua definizione di arbitraggio. Dicevo che voi però siete un gruppo che ha anche molte ha un approccio abbastanza europeo, cioè non offrite solo il classico prodotto da scaffale. Voi avete investito in distributori di carburante, ne avete 26 nei vostri centri commerciali più grossi, una banca, telefonia e sto dimenticando forse farmacia, le farmacie, ecco, gli ottici. Mi dà una prima valutazione di queste iniziative, chi è andato bene, chi è andato meno bene, poi invece vorrei... Ma direi che in generale queste valutazioni, queste diciamo diversificazioni sono tutte positive. Forse quella che è un po' più difficile è quella della telefonia, offriamo un prodotto ai nostri clienti, però è chiaro che la competizione rispetto ai grandissimi gruppi della telefonia è molto complessa. La benzina è sicuramente un caso di successo, noi permettiamo ai clienti di fatto semplicemente di comprare la benzina a un prezzo più basso di quello che è disponibile. Se fanno la spesa da voi. Anche se non fanno la spesa da noi, non è necessario, basta recarsi nei nostri siti. E questo è effettivamente il tema della liberalizzazione di alcuni mercati che in Italia sono ancora bloccati e che invece noi auspichiamo che vengano liberalizzati per permettere sicuramente una crescita al paese. Stesso tema è quello delle farmacie. Nelle farmacie, come lei sa, alcuni farmaci noi possiamo venderli, ci è stata imposta la presenza del farmacista e noi vorremmo poter vendere a questo punto tutti i farmaci, visto che se c'è un farmacista non ce ne sono di serie A o serie B, però notiamo un forte apprezzamento da parte dei clienti perché offriamo un prodotto a un prezzo più basso e sicuramente questo è estremamente interessante. La banca è un altro tema, abbiamo recentemente trasformato in banca la nostra società finanziaria, abbiamo 23 filiali e inizieranno un lavoro, diciamo, con dei prodotti specifici per i clienti sulla linea di quanto appunto fanno le banche più moderne. In linea generale è chiaro che questo paese ha bisogno di una ventata di liberalizzazione. Fu provato qualcosa tempo fa con le famose lenzuolate di Bersani, qualcosa partì, qualcosa non partì. Speriamo che oggi con anche la famosa lettera alla Commissione, alla Comunità Europea, si possa andare avanti su questo discorso. Sì, per inciso la lettera è una, è quella che ci ha mandato la BCE, noi gli abbiamo rispedita in copia. Detto questo, però mi faccio difendere chi è contrario alle liberalizzazioni. Da sempre questo programma in maniera molto netta si è schierato a favore della maggiore concorrenza, a partire da quella dei servizi in mano al pubblico con il privato, ma anche all'interno del mondo privato. Però c'è chi è contrario, lei citava i farmacisti, sui farmacisti diciamo lì è più facile essere critici, ma tutti gli altri esercizi commerciali obiettano, in questo modo la grande distribuzione massacrerà, ha già massacrato, vedo anche molti messaggi su questo, al 349-238-6666, ha già massacrato la piccola distribuzione, la presenza capillare sul territorio, e finirà poi per snaturare quello che è un rapporto corretto, civile, tra il mondo del commercio e il territorio in cui vive, cioè diventeremo dei grandi fruitori di enormi centri commerciali spesso analizzati dei non luoghi, per dirla alla Marco G. È d'accordo? No, direi che questa è una visione. Noi lavoriamo molto sul piccolo commercio. In Italia abbiamo 1500 punti vendita, di cui un migliaio almeno sono di dimensione piccola, fino a 300 metri, e di questi 800 sono in mano a singoli imprenditori con cui noi collaboriamo. Noi crediamo che in Italia non sia sicuramente il futuro quello dei grandi centri commerciali. Ce ne sono, ce ne potrà essere qualcuno in più, ma il vero futuro è quello dei piccoli centri, dei piccoli negozi nelle città. Solo che per sopravvivere ogni piccolo commerciante deve mettersi in rete. Poi può mettersi in rete con un operatore come noi, può mettersi in rete con altri operatori, ma da soli è veramente difficile. Ecco, ma lei che è il numero uno di Carrefour Italia, come si immagina il rapporto dialettico tra il piccolo negoziante, se vuoi neanche che nemmeno appartiene alla grande catena, e il grande gruppo come siete voi? Qual è il suo spazio? Per noi il piccolo negoziante, quando diventa nostro partner, ha uno spazio estremamente importante, evidentemente. Gli altri piccoli negozianti hanno uno spazio o nella iperspecializzazione, in iperspecializzazione su settori specifici per colpire delle nicchie che una grande catena non è assolutamente in grado di colpire, oppure sicuramente hanno spazio associandosi con un'altra organizzazione, associandosi tra di loro. Quindi la rete è l'unica soluzione, dice, la rete o l'iperspecializzazione? L'iperspecializzazione numericamente limitata, però se no è la rete, perché altrimenti i costi fissi non reggono. Sicuramente ci sono dei costi, ma più che altro sono costi di lancio di prodotto, di definizione di acquisto, di comunicazione, di marketing, tutti questi è molto meglio metterli in rete che farli da sé, evidentemente. Quindi lei non vede la grande distribuzione nemica dei piccoli? Guardi, la nostra realtà, abbiamo 800 punti vendita, 300 imprenditori piccoli che lavorano con noi, ce ne sono molti che hanno un negozio o due e hanno modo di crearsi un lavoro e crearsi una ricchezza del tempo. Io credo che l'Italia sia un paese peculiare, ma dobbiamo veramente collaborare. Quindi con la collaborazione si può trovare ogni soluzione. Grazie all'amministratore delegato di Carrefour Italia, Giuseppe Brambilla di Civesio. Grazie a voi. E a me non resta che ringraziare Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Ha ragione chi dice che la grande distribuzione non si occupa dei piccoli produttori locali, lì però delle volte il piccolo produttore locale non ha la massa critica sufficiente per la grande distribuzione. Andremo troppo in là, il tempo a nostra disposizione è chiuso e termina qui. Buon fine settimana da Sebastiano Berisoni, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.